2. Ascolta e ripeti. È mattina e Luisa è in biblioteca. Scusi, signora, non trovo questo libro, ma non è in prestito. Solo un momento. Finisco di scrivere questo documento e arrivo subito da lei. Prego, non ho fretta. Grazie. Ora controllo subito. Scrivo il titolo e l'autore e... Sì, ha ragione, il libro non è in prestito. Un attimo, per favore. Apro questa scatola perché forse... Ah, ecco, è proprio qui. È fra questi libri. Qui ci sono i libri da portare nella sala di lettura. Bene. Ha la tessera? No, cioè, ce l'ho a casa, ma ricordo il numero. Davvero? Bene. Qual è il numero? Sette, cinque, tre, due, nove, otto, otto. Ha un documento? Sì, ho la carta d'identità. Prego. Bene, ecco il libro. Il prestito è per 20 giorni. Sì, lo so. Di solito restituisco i libri dopo una settimana. Grazie e arrivederla. Arrivederla.